Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno. Sapete quant'è la cifra di 132 miliardi di euro? È una cifra enorme, pari a circa 12 volte il costo degli 80 euro che sono stati dati come detassazione, quindi stipendio in più ai lavori dipendenti, oppure a 9 volte il costo della manovra sulle pensioni. È una cifra con la quale si sarebbe potuto cambiare il corso dell'economia italiana. Se questa cifra noi l'avevamo stimata pari al costo degli incentivi che sono stati dati per l'acquisto di energia fotovoltaica, incentivi che avrebbero dovuto produrre un settore italiano dell'energia fotovoltaica, un'industria dell'energia fotovoltaica. Questi incentivi sono cessati 2 anni fa e il 70% delle aziende di impiantistica e costruzione di fotovoltaico in questo paese hanno chiuso. L'obiettivo è stato mancato. Questa cosa per noi è la prova di come non si fa una politica industriale, di come non si costruisce un settore. Di questo argomento e di altre cose di elettronica, in questa puntata ne parliamo con Alberto Pinori, direttore generale della Fronius. Buongiorno. Buongiorno. La Fronius fa inverter per impianti fotovoltaici, carica batterie per la logistica e saldatrici. Io però ho invitato Pinori perché lui è molto bravo a spiegarsi, è molto brillante e quindi può spiegare che cosa è avvenuto e come ha funzionato questo grande inganno del fotovoltaico in Italia, che ha poi alimentato una speculazione. Ecco, ci dica che cosa è successo, come è avvenuto che il 70% di quelli che costruiscono pannelli e impianti hanno chiuso. Il problema si è creato nel momento in cui gli incentivi sono rimasti costanti al calare dei prezzi degli impianti fotovoltaici, e quello è stato il momento in cui si è creata una speculazione e quindi si sono messi in quel mercato tutta una serie di soggetti. Il problema a questo punto è che alcuni erano prodotti e progetti industriali seri che hanno approcciato il mercato in maniera corretta, altri hanno voluto approcciare questo mercato in maniera meno corretta, quindi con aspetti solo speculativi oppure di ottenere risultati di breve periodo. È chiaro che una parte di questi soggetti avrebbero dovuto mancare successivamente quando il mercato diventava più maturo. Quindi si è creata una gigantesca speculazione sul fotovoltaico in Italia. A un certo punto i prezzi degli impianti sono calati e la gente si montava sul tetto dell'azienda o nel giardino di casa i pannelli fotovoltaici, perché c'era un tale delta tra l'incentivo e il costo per cui uno si faceva lo stipendio con i pannelli. Più che uno stipendio, diciamo, era un investimento finanziario, e spesso gli installatori si sono trasformati in promotori finanziari effettivamente, e non davano più una proposta di carattere di efficientamento energetico e di risparmio energetico e quindi risparmio in bolletta, ma addirittura un investimento finanziario a doppia cifra. Ecco, c'è stata una speculazione che è stata un po' scandalosa, no? Sì, è stato un errore che non è stato capito, perché è un mercato complesso. Probabilmente chi si è susseguito non ha capito questo meccanismo e non ha fatto fronte nel modo giusto. Devo dire che anche in altri paesi si sono verificate situazioni analoghe, per cui non è neanche una cosa solo italiana. È un mercato complesso, un mercato con una tecnologia molto vecchia, perché ha più di 35 anni, però applicata soltanto adesso, che finalmente però adesso ha un suo modo di vivere, quindi un obiettivo è stato raggiunto, quello di far scendere i prezzi. Oggi un impianto fotovoltaico è molto conveniente. Ci interrompiamo un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità, restate con noi. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presento Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, puntata dedicata all'industria del fotovoltaico. Il nostro ospite è Alberto Pinori, direttore generale della Fronius, sede italiana di una multinazionale austriaca che fa inverter per impianti fotovoltaici, carica batterie per la logistica e macchine per la saldatura. Le macchine per la saldatura sono distribuite da una società che si chiama Arrowhead, che un giorno avremo ospite anche qui, perché Mirko Gasparotto è veramente un personaggio che ha molto da dire. Ma qui parliamo di come mai è nata oppure no un'industria del fotovoltaico in Italia. Stavamo dicendo che ai consumatori italiani, che sono anche i contribuenti, è stata fatta spendere la bellezza di 90 o 130 miliardi. Questo è l'intervallo per poi creare un'industria che non è nata. In Germania è stato fatto lo stesso, ma prima c'è stato un piano industriale di settore, prima c'è stato una politica industriale e poi gli incentivi. Qui sono stati dati gli incentivi un po' così, è un gigantesco spreco. Ma ce la racconti meglio, dottor Pinori? Allora, lo spreco c'è stato perché effettivamente non c'è stato un piano industriale e effettivamente molti prodotti arrivavano dall'estero e in Italia non si è creato quello che si sarebbe dovuto creare. Questa è una pecca che si è creata e assolutamente bisogna pensarla in questi termini, da un punto di vista guardandosi indietro. Però c'è anche da dire che oggi la situazione esiste, ci sono effettivamente energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in maniera significativa e per l'Italia questo è un fatto positivo. Quindi è vero che gli incentivi sono stati costosi, potevano essere rimodulati in modo differente, potevano essere utilizzati in modo più spalmato nel tempo, e è anche vero che dovevano durare 20 anni per raggiungere l'obiettivo 20-20-20 e questo è stato raggiunto in termini molto più veloci, ma allo stesso tempo non è stato dato spazio alle aziende per creare un piano industriale vero e proprio. Quindi chi sono quel 70% di aziende che dopo la fine degli incentivi ha chiuso? Beh, produttori di moduli, produttori di inverter, installatori. E sono a basso valore aggiunto? Beh no, basso valore aggiunto no, però diciamo che l'inverter è di un valore aggiunto. No, quelle maggiore. Aziende lì che hanno chiuso? Beh, quelle senz'altro sì, perché hanno avuto un problema di carattere di approccio, cioè se entri in maniera speculativa in un mercato dove compri la cella, l'assembli in maniera abbastanza elementare con macchinari poco costosi e la rivendi sul mercato sapendo che tanto il mercato sta tirando, non stai facendo un piano industriale, stai mettendo su un'azienda di assemblaggio di prodotti che arrivano magari dalla Cina. Il 90% arrivavano dalla Cina, da Taiwan. E quindi si sono aiutate aziende che erano cinesi di Taiwan più che aziende italiane a fare questo tipo di industria? Beh, sicuramente indirettamente sì, però è anche vero che lo stesso è avvenuto in altri paesi, quali la Germania. No, la Germania però ha creato un'industria tedesca meccanica ed elettronica del fotovoltaico. L'ha creata assolutamente sugli inverter, sia la Germania che l'Austria che in altri paesi. Infatti voi siete austriaci. Infatti, questo lo confermo, però allo stesso tempo, perché dove c'è tecnologia particolare, evidentemente il post vendita e altri aspetti entrano e hanno un valore importante. E quindi quella tecnologia è importante avere qualcosa che funzioni in tutta la filiera. Sul modulo, una volta che è installato, normalmente problemi non ne dà e quindi una volta installato non c'è bisogno di post vendita, è più un mercato mordi e fuggi. Quindi, pur essendo morte il 70% delle aziende che facevano i moduli, assemblavano i moduli perché sono finiti gli incentivi e questo 70% di aziende ha cessato la ragione di esistere, comunque esiste un'industria del fotovoltaico in Italia di maggiore qualità che fa soprattutto gli inverter. Che cosa sono gli inverter? L'inverter è quel oggetto, quel strumento elettronico che trasforma l'energia da continua ad alternata. In pratica il sole viene catturato dai pannelli, l'energia solare viene trasformata in energia elettrica continua e l'inverter lo trasforma in energia alternata. E anche se le nuove installazioni di impianti fotovoltaici sono crollate perché sono finiti gli incentivi e adesso lo fanno solo coloro che sono motivati per l'autoproduzione, comunque c'è un settore più piccolo del fotovoltaico con nuove installazioni che sono molto più sane? Sì, assolutamente sì, questo è proprio l'aspetto più importante che stiamo vivendo in questo periodo, e cioè chi installa oggi lo fa oltre che autoproduzione, autoconsumo. Quindi la cosa importante è che voglio vogliono consumare quello che producono in loco, e questo era proprio uno degli obiettivi che si prefiggevano il legislatore nel passato con i conti energia, e questo è un obiettivo che abbiamo raggiunto in fondo. Con dei costi alti, sono d'accordo, però obiettivamente oggi questo risultato c'è. L'autoconsumo significa consumare quando produci l'energia e quindi non immetterla di fatto in rete, e questo è proprio il principio di base del fotovoltaico. Adesso non si può più vendere al gestore l'energia autoprodotta? Sì, si può fare, esiste anche lo scambio sul posto fino a 200 kW, però... Quanto te la pagano? Cambia continuamente e il prezzo comunque non è conveniente, quindi ha poco senso se è quello il principio col quale si viene fatto. Ecco, adesso poi c'è quest'ondata del revamping, che cos'è? È il rinnovamento dell'impianto fotovoltaico. Nel 2010-2011 c'è stato il picco delle installazioni in Italia, però è stato anche fatto in maniera un po' affrettata e non sempre con tecnologie adeguate. E quindi cosa è successo? Che oggi dobbiamo andare, come si dice volgarmente, a revampare, cioè a rinnovare quegli impianti fotovoltaici che hanno dei problemi. Ma qual è la differenza tra revamping e repowering? Beh, è soltanto dialettica alla fine, però all'estero viene utilizzato repowering perché è un po' più corretto. In Italia, se viene usato repowering, il GSE teme che tu voglia aumentare l'impianto fotovoltaico. Il GSE sarebbe gestore della servizi elettrici. E quindi non te la paga più con le vecchie tariffe. Non ti dà più l'incentivo. Ecco, il nostro claim è viaggio nell'industria che cambia. Mi stava venendo viaggio nell'industria che campa, e campare sugli incentivi in effetti era il mio pensiero. Però torniamo al nostro claim, viaggio nell'industria che cambia. In poche parole, come è cambiata in questi anni l'industria del fotovoltaico in Italia? È cambiata tanto perché prima ci si approcciava per un aspetto che spesso non era neanche legato all'incentivazione, si pensava a un vitalizio. Questo è stato l'errore più grave che si potesse commettere nell'approccio del fotovoltaico. Però era bello, no? Uno metteva il fotovoltaico e lo Stato, attraverso il gestore della rete elettrica, per 20 anni gli dava il vitalizio. Io so di gente che sta in riva al lago di Como, che si è messa un sacco di impianti fotovoltaici in giardino e ha smesso di lavorare, tanto gli arrivano 1000, 2000, 3000, anche 5000 euro al mese solo vendendo quell'energia lì, e poi loro stanno in giardino a prendere il sole. Meglio degli ex parlamentari. Non le conosco io personalmente queste persone, però sicuramente se sono riuscite a fare questo devono calcolare bene che devono morire prima dei 20 anni, perché sennò alla fine rimangono poi senza vitalizio. Comunque il vitalizio è un errore italiano, è qualcosa che noi cerchiamo sempre ed è stato uno degli elementi alla base dei problemi del fotovoltaico. Però sintetizziamo come è cambiata l'industria del fotovoltaico. Beh, è cambiata nel senso che oggi chi approccia al fotovoltaico, sia da lato consumatore che installatore che produttore, è un professionista, e chi va a installarsi un impianto fotovoltaico lo fa per autoconsumo e per fare effettivamente efficienza energetica. Quindi o si va in questa direzione oppure l'approccio non regge. Chi fa un piano industriale come Fronius, che riesce a pensare non solo a 5 ma a 10 o a 15 anni, vede anche come sarà il fotovoltaico fra 5 anni. Qual è la strategia che Fronius Industria Austriaca si è data in Italia? Intanto abbiamo due divisioni delle tre, e noi abbiamo due mercati molto diversi, però sul fotovoltaico abbiamo dei focus molto chiari, e sono il servizio post vendita con una rete capillare di installatori che supporta Fronius nel post vendita. Abbiamo dei prodotti all'avanguardia da un punto di vista di innovazione e facciamo tantissime attività sul campo, sia con progettisti che installatori. Quindi queste tre operazioni permettono al distributore, cioè il nostro cliente, sales partner, di presentare un prodotto che c'è e che ci sarà nel tempo. Ecco, poi voi fate anche i caricabatterie per la logistica. Sì, il caricabatterie è uno strumento importante perché permette di allungare la vita alla batteria, e quindi chi ha dei muletti, chi si occupa di logistica, ha la necessità di avere batterie che sono costose, che durino nel tempo e vengono ricaricate il più velocemente possibile. Fronius ha inventato, di nuovo grazie alla sua innovazione, un dispositivo che gli permette di caricare molto rapidamente e cicli di ricarica migliori. Ecco, invece, voi fate parte dell'industria elettronica in Italia. Lei come vede il futuro di questo settore nei prossimi anni? La strada principale noi riteniamo che sia l'efficienza energetica. Oggi la ristrutturazione è l'unico vero percorso, la strada maestra che dobbiamo seguire tutti, perché di grandi nuove abitazioni l'Italia non ha neanche proprio bisogno. Attraverso quella, secondo noi, ci può andare dietro tutto un mercato dell'edilizia, dell'elettronica e del termoidraulico. Bene, il tempo volge al termine perché come sempre è tiranno. Ringrazio il dottor Pinori. Grazie a voi. E arrivederci alla prossima puntata.